Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo chiaramente dell'incontro tra governo e mondo delle imprese, imprese bancarie, imprese manifatturiere, quindi ABI, Confindustria, imprese dell'artigianato e del commercio. E già i nostri GR vi hanno anticipato i titoli principali. La conferenza stampa non ha visto partecipare i membri del governo, ma solo i rappresentanti delle imprese, ma insomma dal presidente dell'ABI Musser è arrivata la conferma che il governo non intende aumentare l'IVA e che, per quello che riguarda l'accordo con le imprese per il pagamento degli arretrati che la pubblica amministrazione deve alle imprese italiane, stiamo parlando di quasi 60 miliardi di euro, ha detto Musser che entro novembre arriverà una direttiva europea sui pagamenti della pubblica amministrazione. Il presidente di Confindustria Squinzi ha detto di augurarsi un autunno meno bollente e ha definito costruttivo il clima con il governo. Di questo parleremo subito in apertura, dopo altre chiaramente notizie in breve. Poi la vicenda Fondiere Sai, o meglio Mediobanca, ce ne occuperemo dopo i mercati. Mercati che vanno come? Beh, sostanzialmente vanno malino, niente di grave, a Milano, meno 0,50%, un po' meglio Parigi, più 0,20%, Francoforte più 0,40%, l'America più 0,12%, Londra meno 0,36%, euro a quota 1,26%. Vanno in realtà bene oggi le banche, effetto Draghi, chiamiamolo così, e di questo parleremo, perché oggi indiscrezioni della Banca Centrale Europea dicono che gli acquisti che la Banca Centrale Europea potrà fare di titoli di Stato dei paesi più in difficoltà, Spagna in primo luogo, ma anche Italia, potranno essere illimitati. Ora è chiaro che a questo punto bisognerà capire quali condizioni la Banca Centrale Europea, su spinta dei tedeschi e della Bundesbank, chiederà ai paesi che vorranno ricevere questo aiuto, perché poi le condizioni potrebbero essere molto molto pesanti. Ma tant'è, domani c'è il direttivo della Banca Centrale Europea. C'è chi si attende che già domani arrivi l'indicazione di Mario Draghi, c'è chi dice che in realtà l'operazione vera e propria partirà dopo il via libera al fondo salva stati che è previsto per il prossimo 12 settembre da parte della Corte Costituzionale tedesca. Detto questo, le banche vanno bene: più UbiBanca più 3,5, Popolare Emilia Romagna più 2,5, come la Popolare di Milano, più 2,40 Monte dei Paschi, più 1,5 Mediobanca. Il Banco Popolare guadagna lo 0,80, Unicredit lo 0,70. Bene anche di Assorin, più 1,1%, Fiat mezzo punto percentuale di rialzo. Sul fronte opposto invece ST Microelectronics perde il 5,60, Telecom il 2,60 come Finmeccanica, Mediaset meno 2,40, A2A meno 2, Enel meno 2, Tenaris meno 1,40 come Snam, l'1,1 lo perde Terna ma anche Saipem, l'1% Eni e il calo di Eni ma anche di Fiat Industrial, lo 0,90 quello di Campari. Tra i titoli in assoluto di nuovo fortissimo il gruppo Rizzoli, che ormai ha guadagnato un 170% da quando è partita la corsa, più 29% anche oggi a 2,60 euro per azione. Molto forte anche sulle risparmie, più 10,5%. Qualcuno sta rastrellando insomma quote del gruppo che controlla tra l'altro anche il Corriere della Sera. Nokia Corporation è il peggior titolo, questo influenza poi ST Microelectronics, meno 14,80, Cell Therapeutics meno 8,80%. Devo dire la giornata è abbastanza tranquilla in borsa, però su Nokia e sui titoli legati al settore della tecnologia c'è una debolezza generale. 349-238-6666 per i vostri sms. E parleremo anche del Consiglio dei Ministri, ammesso e non concesso che sia terminato alle 18:10, 18:15, perché lì stanno arrivando delle indicazioni sulla parte sanità, quindi dovrebbe essere scomparsa la tassa sulle bevande, però vi saranno altri elementi, quindi No, la tassa sulle bibite, il limite però agli spot per alcuni tipi di giochi e le multe per chi vende sigarette minori, più frutta nelle aranciate, almeno il 20% di succo naturale nelle bibite. Stiamo parlando della bozza, eh? No, latte crudo nelle mense, vietati poi anche il pesce crudo nelle mense. Detto questo, ci sono poi altri elementi che potrebbero emergere, cercheremo di raccontarveli in diretta appunto verso le 18:15. Rapidamente le altre notizie in breve. Oro tranquillo a 1692 dollari l'once, petrolio in calo 96 dollari e mezzo al barile in America. Sul petrolio oggi gli Stati Uniti hanno accusato British Petroleum di evidente negligenza in riferimento alla marea nera, al disastro ecologico del 2010 nel Golfo del Messico. Sembrano intenzionati gli Stati Uniti a ottenere la massima penalità possibile per il colosso petrolifero British Petroleum. Veniamo all'Europa, che qualcosa stia forse cambiando nel clima di panico e quindi ricerca di massima sicurezza negli investimenti. Lo si capisce oggi dall'asta dei titoli di Stato tedeschi, Bund, perché su 5 miliardi offerti di Bund a 10 anni, con rendimenti bassissimi, l'1,42%, praticamente quasi a zero, ne sono stati comprati solo 3 miliardi e 900 milioni, cioè 1 miliardo e 100 milioni quasi non hanno trovato compratori. Un clima molto diverso rispetto a quello di maggio-giugno, quando vi fu la corsa, e anche, devo dire, luglio, la corsa a comprare titoli di Stato tedeschi, anche se rendevano nulla o delle volte avevano rendimenti negativi, ma almeno erano considerati sicuri. Nel frattempo è calato sotto i 500 punti lo spread spagnolo, e con un tasso comunque al 6,45%. E sempre sul fronte della Banca Centrale Europea, mentre oggi la Germania è stata zitta perché hanno detto l'Euro Tower, cioè la BCE, si muove in maniera indipendente, il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble è uno dei falchi, insomma, dice no nuovi programmi di aiuto per Atene, ma insomma il presidente dell'Austria ha detto comprendo la volontà di Draghi, la Finlandia ha detto non ci aspettiamo miracoli e ci aspettiamo che la banca centrale rispetti il suo mandato sulla stabilità dei prezzi. Però il presidente dell'Unione Europea Herman Van Rompuy ha detto attenzione, il livello dello spread di alcuni paesi non è giustificato dai fondamentali economici di questi paesi. E questo vale soprattutto per l'Italia. Ripeto, fino a un anno e tre mesi fa il nostro spread era 180-170 punti e il paese non è che fosse messo meglio, che fosse così diverso. I 240 punti in più sono dovuti alle paure sull'euro, non alle paure sull'Italia, in senso stretto. E tra l'altro Van Rompuy ha detto l'Italia ha adottato riforme impressionanti. L'Italia, invece, i dati dei primi 8 mesi sono brutti sulla cassa integrazione. Ad agosto è volata a un più 18%, ma comunque nei primi 8 mesi dell'anno la cassa integrazione è aumentata di quasi il 10%, il 9,6%. E tra l'altro, appunto, con questo botto, questo picco ad agosto rispetto all'agosto del 2011. Nel frattempo sul tema dell'occupazione c'è stato un incontro tra l'azienda San Raffaele, il gruppo ospedaliero San Raffaele e i sindacati. Potrebbero esserci tagli di dipendenti tra i 300 e i 400 dipendenti su circa 4.000 dipendenti. La vicenda dell'Ilva, quindi continuiamo a tenervi aggiornati sulle varie situazioni di tensione. L'Ilva di Taranto, il ministro Corrado Passera al Senato oggi ha chiarito che dalla chiusura dell'impianto arriverebbe un impatto negativo di oltre 8 miliardi di euro l'anno come conseguenza diretta e indiretta. Il costo di un'eventuale chiusura dell'impianto avrebbe conseguenze negative sia dirette che indirette, che pensiamo debbano essere prese in considerazione nelle decisioni che riguardano il futuro dell'impianto stesso. Complessivamente si determinerebbe un impatto negativo che è stato valutato intorno a oltre 8 miliardi di euro annui, imputabili per circa 6 miliardi alla crescita delle importazioni, per 1 miliardo e 2 al sostegno al reddito e ai minori introiti per l'amministrazione pubblica e per circa 500 milioni in termini di minore capacità di spesa per il territorio direttamente interessato. In una fase di calo globale del mercato è evidente che l'eventuale uscita di uno stabilimento come quello di Taranto sarebbe guardata con estrema soddisfazione dai maggiori competitor europei e mondiali. Tali considerazioni sono certamente importanti, ma in nessun caso possono naturalmente giustificare il mantenimento di situazioni di rischio ambientale e per la salute dei lavoratori e dei cittadini al di fuori delle normative. E poi sempre il ministro Passera ha detto attenzione sull'impatto ambientale però dell'Ilva di Taranto, ci sono criticità ancora molto forti. Negli ultimi anni gli investimenti dedicati all'ammodernamento degli impianti hanno riguardato tutte le aree dello stabilimento di Taranto, mentre gli investimenti dedicati al miglioramento dell'impatto ambientale hanno riguardato con maggiore evidenza le aree più critiche, a partire dalle coccherie, nelle quali l'investimento complessivo è stato di oltre 480 milioni di euro, pari al 44% degli investimenti dedicati alla tutela ambientale. Nonostante gli investimenti realizzati, la situazione ambientale presenta ancora elementi di criticità molto forti che non ci consentono, ad oggi, di esprimere ancora un giudizio conclusivo sulla loro efficacia rispetto ai limiti imposti dalla normativa italiana ed europea che man mano si è succeduta nel tempo. E dall'Ilva di Taranto all'Alcoa. Allora, il colosso Glencore, quello che dovrebbe o che potrebbe rilevare la fabbrica di Porto Vesme, lo stabilimento di Porto Vesme dall'Alcoa, ha chiesto ancora qualche giorno per la valutazione. In realtà la data ultima è il 10 di settembre. Il presidente di Confindustria Squinzi ha ricordato che l'Alcoa di Porto Vesme si può salvare solo se si trovano le condizioni per avere un'energia a prezzi competitivi dal Sulcis e quindi dalla parte che riguarda l'intera area dove si trovano sia le miniere di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi che lo stabilimento dell'Alcoa del Sulcis, oggi al microfono la nostra Laura Bettini ha parlato Giovanni Sulis, raccontando il perché poi questa, come spiegavamo anche ieri, questa crisi sia delle miniere che dello stabilimento dell'Alcoa va a collocarsi in un'area dove la disoccupazione è già al 20%, un livello altissimo, quella giovanile arriva al 40-45%, una crisi che è nata in un'area a forte insediamento industriale per essere in Sardegna già negli anni 80. La crisi dell'industria in Sardegna parte almeno dagli anni 80, dalla fine degli anni 80 con un susseguirsi di vicende, poi successive acquisizioni, magari anche da parte della regione. Per quanto riguarda gli episodi più recenti di crisi, possiamo identificare il periodo 2007-2011 come quello proprio di crisi conclamata, diciamo. Le aree della regione nelle quali si concentrano questi punti dolenti, diciamo? Sicuramente il sud-ovest della Sardegna, quindi la zona di Porto Vesme, eccetera, le zone anche della costa nord, vicino a Porto Torres, sono quelle che sono caratterizzate appunto da ex poli industriali. Il punto dolente della situazione è proprio questa, non sembra esserci per quella fascia della forza lavoro, ovvero lavoratori pur qualificati, però con livelli di istruzione mediamente bassi, in genere maschi, che hanno superato i 50 anni di età, ci sembrano essere veramente pochissime possibilità di riconversione, cosa che per esempio non è vera invece per le donne più giovani e mediamente più istruite, che anche in quelle aree, nonostante la situazione di crisi e difficoltà, riescono comunque a trovare lavoro o comunque continuano a cercarlo. Quindi diciamo che negli anni gli uomini non hanno investito sulla loro formazione, mentre le donne sì, forse perché non potevano andare a lavorare in certi stabilimenti? Esatto, probabilmente possono aver investito anche in formazione, ma una formazione su lavori e posti di lavoro che in questo momento, per via di concorrenze internazionali e anche di ciclo economico, sono posti di lavoro che vengono distrutti e non vengono poi creati nuovamente, mentre invece la forza lavoro femminile ha investito su una formazione che è evidentemente più orientata alle qualifiche richieste al mercato. Il settore è quello dei servizi comunque. Il settore dei servizi, infatti poi c'è chiaramente un dibattito all'atere sulla qualità posti di lavoro creati, però comunque ritengo opportuno sottolineare il fatto che comunque la partecipazione, il fatto che le donne trovino lavoro e lo cerchino, quindi evidentemente se lo cercano hanno possibilità e speranza di trovarlo, è comunque un segnale positivo e ripeto, in controtendenza anche a tutta l'area del Mezzogiorno. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Eh sì, bello il contrasto, bello si fa per dire, tra le difficoltà dei lavoratori e degli occupati nella zona di del Sulcis e anche dell'Iglesiente, con quanto raccontiamo ogni giorno della crisi degli altri, la crisi che gli altri non vedono. E tocca parlare di nuovo delle nostre amministrazioni locali. Non è la Sicilia, non è sempre il sud, ieri abbiamo citato anche Milano, oggi infatti è Alessandria, perché la prefettura di Alessandria ha notificato 2 giorni fa al sindaco Rita Rossa il decreto di nomina dell'organismo straordinario di liquidazione formato da 3 commissari. Che cosa è successo? Da poco Rita Rossi del PD è sindaco di Alessandria, storicamente roccaforte del PD e della Lega. La precedente amministrazione ha portato la città al fallimento, lasciando in eredità un buco di 140 milioni di euro, non male per una città come Alessandria. In cassa non c'è neanche un euro in questo momento. Voi direte, magari hanno speso 140 milioni di euro per asili, scuole, la viabilità, i giardinetti. Anche al nord, voglio dire, ci si sbaglia. Come pensate, la lista farei un'intera puntata sulla lista degli sprechi, però 28 persone assunte dal comune, 28 persone assunte dal comune di Alessandria per sistemare i computer. Ora, a detta di un dirigente dell'attuale amministrazione, costerebbe meno cambiare tutti i computer all'anno, ogni anno, e che pagare queste 28 persone. Rendiamoci conto di che livello siamo. Oppure i 25.000 euro spesi dal comune per regalare le penne agli ambasciatori che sarebbero venuti a far visita ad Alessandria, che naturalmente l'ambasciatore ha tante cose ma gli mancano le penne, no? E 25.000 euro, sarebbe bello anche vedere da chi le hanno comprate, così per capire se è stata un'asta molto trasparente oppure no. Oppure la mostra fotografica dal costo di 750.000 euro, adesso io capisco, ma che se le sono comprate le foto o hanno fatto la mostra? O i 500.000 euro di rose, 500.000 euro di rose comprate in Moldavia e trapiantate in tutta la città. Allora, alla romantica, perché insomma, spendere 500.000 euro per le rose, secondo me è un segno di amore nei confronti dei cittadini. Chi se ne frega se poi li lasci senza un euro in casa, ma insomma, con le rose, dateci pane e rose. Qua pane ce n'è poco, rose tante, si mangeranno le rose ad Alessandria. Un applauso alla giunta precedente. PDL Lega, così facciamo nome e cognome, 500.000 euro di rose comprate in Moldavia e trapiantate in tutta la città, chissà che profumo. Allora, l'incontro di oggi tra il governo e le parti sociali, la conferenza stampa è stata fatta solo dalle parti sociali, non dal governo. Perché lo dico? Perché le notizie che stiamo per riferire arrivano direttamente da chi ha partecipato all'incontro. Già in mattinata il presidente Confindustria Squinzi aveva detto che bisogna detassare i salari per il rilancio dei consumi. C'è un autunno bollente, manca una politica industriale. Dopo l'incontro, però, conferenza stampa anche di Squinzi, oltre che di Musse, di presidente dell'ABI, Guerrini, presidente di Rete Imprese per l'Italia. Squinzi ha detto: beh, con il governo c'è stato un clima costruttivo, mi auguro che l'autunno sia meno bollente. No, l'incontro è stato soddisfacente, soprattutto in termini del clima costruttivo che abbiamo riscontrato. C'è molta attenzione da parte del governo nell'ascoltare le nostre tesi e anche con risposte puntuali sui diversi problemi sollevati. Io me lo auguro. Quello che io vorrei sottolineare è stato comunque la positività del clima in questo incontro, di cui a fronte dei nostri rilievi, anche in alcuni casi anche abbastanza precisi, abbastanza serrati, c'è stata una risposta puntuale del governo, abbiamo captato una volontà comunque di affrontare i problemi nei tempi resi possibili dalla fine della legislatura e di dare delle risposte il più possibile concrete alle nostre segnalazioni. Ecco, direi che più di questo non possiamo segnalare. Mi auguro che poi si traduca in un'azione, in un risultato positivo per tutto il nostro Paese. E poi il presidente dell'ABI Musseri, che ha detto che il governo ha garantito che non vi sarà l'aumento dell'IVA e si è impegnato a una delega fiscale entro il 2012. Abbiamo apprezzato l'impegno del governo di emanare entro il mese di novembre la direttiva, di recepire la direttiva europea sui tempi di pagamento. Voi sapete che il tema dei tempi di pagamento fra pubblica amministrazione e imprese e anche tra imprese era uno dei temi di questo documento. Abbiamo apprezzato che il fatto che il governo, se il Parlamento vorrà ovviamente farlo, si è impegnato a far sì che la delega fiscale venga approvata entro la fine dell'anno, ed era un altro punto contenuto nel documento. Il governo ha ribadito la sua volontà di non aumentare l'IVA e di reperire attraverso tagli di spesa i denari che deriverebbero dall'aumento dell'IVA. Da parte nostra abbiamo sottolineato l'impegno delle imprese italiane a dare il contributo migliore possibile al recupero di competitività del Paese complessivamente inteso. E poi il presidente di Rete Imprese per l'Italia, quindi Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Giorgio Guerrini. Abbiamo la necessità, ha detto Guerini, di accrescere la competitività attraverso lo sfoltimento della burocrazia e una maggiore flessibilità del lavoro e degli orari. Le iniziative di prospettiva che sono state recepite positivamente dal governo sono il ricreare un ambiente favorevole all'impresa. In un paese come il nostro, che ha una grande cultura d'impresa, ma che nel corso di questi decenni ha desertificato la possibilità di poter sviluppare impresa, crescere e attrarre investimenti soprattutto dall'estero. Quindi nella prospettiva a lungo termine che impegna questo governo, ma io credo che dovrà impegnare anche le esperienze di governo successive, vi è stata una condivisione totale. La necessità, sia dal punto di vista del Paese, ma anche dal punto di vista delle imprese, di accrescere la competitività attraverso lo sfoltimento della burocrazia, attraverso la modifica delle procedure, attraverso anche una maggiore flessibilità del lavoro, degli orari e tutto quello che ne consegue. Di questo ha scritto oggi su Sole 24 Ore, in prima pagina, l'economista Gian Maria Grospietro, che salutiamo. Buonasera, professore. Buonasera. Mi devo dare alcune risposte però a una notizia che abbiamo dato nella nostra rubrica, non so se lei la conosce, ma cos'è questa crisi, cioè la crisi che gli altri non vedono e non sentono. Certo. Sullo spreco dei comuni. Allora, il comune di Alessandria, lei tra l'altro è piemontese, se non ricordo male, professore. Certamente, per cui... Ecco, no, siccome c'è un buco finanziario di 140 milioni di euro e non c'è più un euro in cassa, c'è un nuovo sindaco, Rita Rossi del PD, il sindaco precedente era del PDL, abbiamo trovato anche il nome, Carlo Fabio, e abbiamo letto alcuni di questi sprechi: 28 persone assunte per sistemare i computer, e si calcola che costerebbe meno cambiare ogni anno, ma anche appunto i 500.000 euro di rose comprate in Moldavia e trapiantate in tutta la città. Ci scrivono alcuni abitanti di Alessandria dicendo che il 90% di queste rose, tra l'altro, sono incolte. Che peccato, almeno, no? Queste rose potevano alleviare la vita. Uno non ha il pane, ma almeno le rose, si ricorda il professore, no? Negli anni 70, vogliamo il pane e le rose. Qua ci sono solo le rose. Però trovo una delle battute migliori, quella che ha scritto un ascoltatore, perché ha speso il comune di Alessandria anche 25.000 euro in penne da regalare agli ambasciatori che si sarebbero recati a far visita ad Alessandria. E un ascoltatore scrive: beh, ambasciatore non porta penna, fantastico, non porta penna, chissà che fine hanno fatto. Chiusa questa breve precisazione, lei oggi scrive su Sole 24 Ore: attenzione, devono cambiare i rapporti tra governo e mondo delle rappresentanze datoriali, come si chiama in gergo, quindi sindacati, ma soprattutto Confartigianato, Confcommercio, Confindustria. Fino adesso, storicamente, ci si sedeva attorno a questo tavolo, governo e parti sociali, aspettandoci che il governo più o meno aprisse la borsa, la scarsella, come si dice a Venezia. E invece adesso questo non è più possibile. Il debito, l'attenzione dell'Europa, lo spread e quant'altro. Allora le chiedo, a cosa serve un incontro tra governo e parti sociali se il governo non ha nessuna borsa da aprire? Se, come lei dice, mi sembra assolutamente indubitabile, ormai l'incontro tra governo e parti sociali non è più l'incontro in cui il governo può aprire i cordoni della borsa, offrire qualcosa di economicamente rilevante, lasciamo stare le varie alchimie, ma insomma i conti pubblici devono continuare a scendere e l'Europa ci guarda, come si dice con una frase fatta, a cosa servono questi incontri? Allora, diciamo che considerare il governo come un portatore di borsa significa dargli un ruolo sbagliato, perché il primo compito del governo non è quello di prelevare dalle tasche dei cittadini e ridistribuire il reddito, il primo compito è scrivere delle regole, assicurare dei servizi e fare in modo che il sistema economico funzioni bene. Poi è chiaro che può anche avere un compito redistributivo, ma in Italia su questa via si è largamente ecceduto, perché la spesa pubblica comprensiva del deficit supera la metà del reddito nazionale, il che significa che in Italia più di metà dei percettori di reddito lo ottengono in qualche forma dallo Stato, o come dipendenti o come fornitori o come percipienti di trasferimenti. Cioè il 50% del PIL di questo paese è fatto da soldi che vengono incassati dallo che vengono pagati dallo Stato, pubbliche amministrazioni locali, regioni, non è che ci sono. Prego. Ci porta a una conclusione, che se uno si chiede come si fa a ottenere denaro, per più della metà della risposta consiste nel rivolgersi allo Stato. Vogliamo dirla in modo un pochino più pittoresco, invece che lavorare conviene spendere il tempo per convincere lo Stato a darci dei soldi. È così che il paese non cresce. E quindi questo delinea un doppio paese, cioè un paese che cresce e produce, non dico solo il privato, vale anche per il pubblico, laddove il pubblico funziona, ci mancherebbe. E faccio il caso delle imprese, le imprese che esportano, abbiamo visto i dati sulle esportazioni, sono molto buoni anche durante la crisi e anche in questi mesi, che vanno sui mercati, che si confrontano e quant'altro. E poi c'è una parte del paese che vive della spesa pubblica. Ora, capiamoci, professor Grospietro, capita anche negli altri paesi che una fetta consistente dell'economia sia dovuta alla sia mantenuta con la spesa pubblica, forze dell'ordine, sanità, scuola, tutto un insieme di strutture amministrative che servono per il vivere civile. Se ho ben capito, lei ci sta dicendo è troppo alto il livello, non è che sia sbagliato, ma è troppo alto il livello. Allora, se non è inutile, diciamo, aspettarsi che il governo continui a aprire la borsa, ripeto, questi incontri secondo lei che tipo di utilità dovrebbero avere, a che cosa dovrebbero portare? Allora, io mi aspetto che le parti sociali concordemente dicano al governo che del valore che viene prodotto dall'attività produttiva una quota maggiore deve essere lasciata a chi lo ha prodotto, quindi detassazione soprattutto del fattore lavoro che è penalizzato. E su questo io non vedo perché non dovrebbe esserci l'accordo delle parti sociali, le quali poi dovrebbero anche fra di loro trovare il modo di rendere più efficiente la produzione italiana, in modo che si accaparri una quota maggiore del denaro che viene speso sia dai consumatori italiani sia da quelli esteri, cioè attraverso le esportazioni. Il governo da parte sua deve migliorare i servizi che rende, perché nessuno ha stabilito che a fronte di quella massa di denaro che il governo preleva, i servizi debbano essere inferiori. Per essere concreti, in Germania la spesa pubblica incide meno che in Italia sul reddito nazionale, ma i servizi sono di gran lunga migliori. Quindi il governo, invece di portare una borsa fatta di euro, deve portare una serie di provvedimenti che migliorano i servizi e soprattutto il rapporto tra servizio reso e costo addossato ai contribuenti. Sì, questo andrebbe benissimo se poi non ci trovassimo, tranne che nel caso di Monti, che è un governo tecnico, con governi giustamente politici. Allora, professore, lei sa benissimo com'è partita la corsa alla spesa pubblica in questo paese, perché la conosce meglio di me. È partita per sostanzialmente, poi è ritornata dopo la stagione virtuosa di Ciampi, Amato e Dini, è tornata a salire per esigenze di carattere elettorale. Non inutile girarci troppo attorno, nel senso che questi soldi, laddove qualcuno vive grazie ai trasferimenti dello Stato o dell'ente locale o delle regioni, è un potenziale elettore a favore del governo in carica. E qui il mio timore è che, finito il governo tecnico, si riparta col solito giro, cioè per non toccare gli interessi corporativi continuiamo a aumentare la spesa pubblica per tutti gli italiani. Ma certamente questo è uno dei motivi per cui noi ci aspettiamo moltissimo dal governo tecnico, perché non ha il peso di quel trascinamento a cui lei stava accennando. Non a caso il precedente che lei ha citato è quello di Ciampi, quindi governi che non si proponevano di essere rieletti. Attenzione che c'è il rischio di finire in un gorgo senza ritorno, quando più della metà degli elettori appartiene alle categorie che a torto o ragione ritengono di avere interesse a che lo Stato continui a spendere, sarà impossibile tornare indietro e quindi il Paese non potrà mai più risollevarsi. È importante quindi che sfruttiamo anche sul piano politico la presenza di un governo tecnico per raddrizzare le cose. Sì, e comunque mi sembra che la ricetta principale, al di là dello snellimento burocratico, della maggiore efficienza della burocrazia, di una riforma seria di sta pubblica amministrazione, che la smetta per esempio di rendere di fatto inamovibili i dirigenti della pubblica amministrazione e i dipendenti, però mi sembra che la ricetta economica più forte torni a essere il famoso cuneo fiscale, quello di prodiana memoria, cioè detassare il lavoro soprattutto per i lavoratori, in questo caso non come fece Prodi che levò 3 punti alle imprese e 2 lavoratori, ma se ben capito dice soprattutto sulla busta paga, non per l'impresa. L'importante è che il fattore lavoro sia detassato, perché poi ai lavoratori qualche cosa bisogna dare per sopravvivere, quindi o glielo si dà direttamente e quindi i lavoratori staranno meglio, o si detassa il lavoro per l'impresa. Non dimentichiamo che l'impresa sul costo del lavoro paga l'IRAP, che è un'imposta folle, perché viene pagata su tutti i prodotti fabbricati in Italia con lavoro italiano. È sufficiente per il consumatore eludere questa imposta comprando un prodotto importato. Quindi questo è uno dei campi su cui bisogna dirigersi con maggiore decisione, perché evidentemente cancella posti di lavoro, soprattutto i posti di lavoro nuovi. Ecco, vorrei toccare con lei un ultimo tema però, perché noi raccontiamo da mesi nella rubrica appunto ma cos'è questa crisi, come gli sprechi, le malversazioni, la spesa inefficiente, sì, stia a Roma, ci mancherebbe, ma purtroppo non è che dalle regioni, dai comuni arrivino sempre esempi più virtuosi, Nel caso di Alessandra di oggi è solo l'ultimo di quelli che abbiamo raccontato, ma secondo lei perché nemmeno nei comuni o nelle province o nelle regioni in cui il rapporto è più diretto, in cui lo so che faccia il sindaco di Alessandria piuttosto che il sindaco di Catania, si riesce a rompere questo meccanismo? C'è una questione di finanza pubblica locale, anche su questo il governo ha cominciato a mettere mano. Fino adesso è successo che gli amministratori pubblici locali potevano farsi belli con gli elettori che incontravano per strada, erogando servizi, assumendo persone, comprando penne e rose, ma non erano obbligati, per far fronte a questo, ad aumentare le imposte. Se invece la finanza locale viene portata ad avere un collegamento più diretto fra quanto si spende e quanto si chiede ai contribuenti locali, agli elettori locali, io credo che le cose cambieranno rapidamente. Rispondo anche ad alcuni ascoltatori che dicono al 349-238-6666, basta con i governi politici, per risollevare l'Italia ci vuole un governo tecnico per 5 anni. Allora, è un tema molto delicato, io da un punto di vista di principio non sono d'accordo, cioè sospendere la democrazia, che ha il suo atto principale nelle elezioni di un governo, che poi è formato da partiti, mi sembra una cosa, cioè una resa totale. Preferirei continuare a credere che la classe politica possa portare, diciamo, un governo in grado di essere attento alle esigenze comunque delle varie componenti sociali ed eletto democraticamente. Detto ciò, vediamo cosa succede, perché piuttosto che niente, meglio piuttosto. E allora, se dovessimo ripartire con una situazione di criticità estrema perché i partiti non hanno capito la lezione di quest'ultimo anno e mezzo, allora sì, commissariamo il paese. Che dobbiamo fare? Tanto mi sembra che ci stiano già un po' commissariando da fuori in questi mesi, speriamo non si continui così. Grazie al professor Gianmaria Grospietro. Il 17:48, allora subito la borsa e poi parliamo anche di Medibank. Meno 0,60% nel finale, più 0,40 a Francoforte, più 0,20 Parigi, Londra meno 0,24, l'America più 0,26, euro quota 1,26,04. Dunque, bene le banche sull'effetto Draghi, più 3,44 Bibanca, più 2,5 Popolare Emilia Romagna, più 2% Popolare di Milano, più 1,30 Monte dei Paschi, più 1% Mediobanca, più 0,90 di Assorin, più 0,70 Banco Popolare. Si aspetta comunque la Banca Centrale Europea di domani. Difficile invece la situazione per alcuni titoli del settore tecnologico. ST Microelectronics perde il 5,31%, in assoluto il peggior titolo è Nokia Corporation, meno 13,20%. Paolo Paronetto, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, dici di ST Microelectronics e Nokia in primo luogo. Sì, diciamo che appunto oggi la seduta è stata soprattutto, come dicevi tu, caratterizzata dall'attesa per domani delle decisioni della BCE. Ci sono alcuni temi soprattutto in negativo, in particolare appunto quello di ST Microelectronics, che è stata penalizzata intanto da alcuni realizzi dopo che il titolo aveva guadagnato circa il 23% rispetto ai minimi toccati a luglio, quindi alcuni investitori hanno deciso di passare all'incasso. Inoltre appunto è penalizzato dalla performance di Nokia, che in questo momento sta perdendo il 15% a Wall Street dopo il lancio di un nuovo smartphone del gruppo. Evidentemente, secondo gli operatori, la presentazione di questo nuovo smartphone è stata una delusione, soprattutto perché Nokia non è riuscita a fornire un calendario su quando verrà effettivamente lanciato sul mercato e neanche sul possibile prezzo di questo nuovo prodotto. Quindi diciamo che gli osservatori e gli esperti di mercato sono rimasti delusi, perché ancora non vedono un rilancio del gruppo concreto proprio sul segmento degli smartphone. Ancora, per quello che riguarda invece, tu già citavi i bancari, Luxottica oggi si era mossa bene in giornata, ci sono notizie che arrivano dalla catena distributiva degli Stati Uniti, e invece Fiat oggi più 0,60%. Vorrei però concentrarmi, prima di arrivare a Mediobanca, su cui avremo un approfondimento apposito, sul titolo Rizzoli Corriere della Sera. Giustamente lo scrittore fa notare che il rialzo è superiore a quanto detto io, al 180%, addirittura qui siamo quasi a oltre un 200%, però non riesco a fare il calcolo a mente. 2,57 in questo momento. Il è oltre il 360%. Oltre il 360% del 24 agosto, figurati un po'. Più 29% oggi, ma chi sta rastrellando? Della Valle? Beh, diciamo che una delle ipotesi che circola sul mercato, una delle più concrete, e ovviamente proprio ieri sera la società ha comunicato ufficialmente di non conoscere i motivi per questa esplosione in borsa. Proprio nelle sale operative il maggiore indiziato è proprio i movimenti nell'azionariato, e Diego Della Valle ovviamente è uno dei nomi che ricorre più frequentemente. Si attende anche l'esito del CDA di Mediobanca di questa sera, che secondo alcuni potrebbe avere riflessi proprio anche sulle partecipate, tra cui ovviamente RCS è una delle più rilevanti. Si attende il piano industriale del nuovo amministratore delegato, ma diciamo che ormai un movimento di questo tipo è soprattutto dovuto proprio alla speculazione e ad eventuali movimenti importanti nell'azionariato che vedranno la luce probabilmente nei prossimi giorni, se qualcuno ha assunto posizioni significative oltre le soglie devono essere comunicate. Sì, perché le soglie vanno comunicate alla Consob, che adesso o improvvisamente decine di migliaia di italiani si sono messi a comprare il titolo di Rizzoli Corriere della Sera, oppure c'è qualcuno che da solo o in pochi ne sta comprando decine di migliaia di pezzi. E questo è il fronte Rizzoli Corriere della Sera. Grazie a Paolo Paronetto. C'è poi il fronte Mediobanca. Il titolo oggi era sotto i riflettori, ha chiuso con un più 1%, quasi a 4 euro per azione. C'era il consiglio di amministrazione e ipotesi di novità sui vertici, leggi Nagel, ipotesi. Antonello Olivieri sta seguendo la vicenda. Antonello, buonasera. Ciao, buonasera. Allora, tra l'altro qui sappiamo che c'è è attesa la relazione dell'amministratore delegato Alberto Nagel sul presunto accordo segreto con Salvatore Ligresti, che è costato allo stesso Nagel un avviso di garanzia con l'ipotesi di reato di ostacolo all'attività di vigilanza. E vorrei capire se sono filtrate, perché dovrebbe essere iniziato alle 5:30. Tensioni, voci, prego Antonella. Ma a dire la verità, sul punto l'aspettativa è in realtà che si preannuncia un consiglio sostanzialmente tranquillo. E chiaramente non è il consiglio o il luogo dove fare il processo sotto altri profili, ma è un luogo dove discutere di business. Dal punto di vista del business, obiettivamente Mediobanca ha portato a casa l'obiettivo di mettere in sicurezza l'esposizione che aveva nei confronti di Fonsai, che era superiore al miliardo. Poi si potrà discutere se sia stato opportuno o se abbia un rilievo anche di altro tipo penale e aver siglato un foglietto con delle richieste della famiglia di Gressi per farsi da parte su Fonsai, quando oltretutto non era Mediobanca il destinatario delle richieste. In pratica era un impegno preso nei confronti di altri, in particolare di Unipol. Sì, per cui dici, non, tra l'altro oggi Geronzi, a proposito, Cesare Geronzi, a proposito dei rapporti fra Mediobanca e Ligresti, ha detto: per quanto riguarda il mio ruolo, che peraltro nulla a che vedere con la vicenda in cui il dottor Nagel è coinvolto, voglio ribadire che non ho mai interferito nell'operatività dei manager. Qui la vicenda riguarda il rapporto Mediobanca Fondiera Sai, perché? Perché come citava Antonello Olivieri, Mediobanca era esposta per 1 miliardo verso Fondiaria Sai, un'esposizione pesantissima, e lì si è aperta l'indagine della magistratura, ma anche appunto il ruolo svolto dai vertici di Mediobanca. Tu quindi non ti attendi che arrivino al di là di dichiarazioni sul piano industriale, grosse e significative dichiarazioni sull'assetto ai vertici, se ho ben capito? No, in questa fase senz'altro no. Certo, la polemica con l'ex presidente di Mediobanca ha un impatto, insomma, diciamo così, mediatico anche rilevante, però non è un argomento che possa incidere in questo momento sull'organigramma di Mediobanca. Allora, grazie Antonio Olivieri, che è appunto in collegamento da Piazzetta Cuccia, e grazie per averci ricordato insomma che cosa potrebbe uscire, cosa invece con ogni probabilità non arriverà, perlomeno da questa sede. Allora, vedo, adesso passiamo al tema dopo il GR, al tema del Consiglio dei Ministri e del decreto, di cosa potrebbe esserci nel decreto sulla sanità. Devo però rispondere a alcuni sms. Ci segnala un ascoltatore che il sindaco e la giunta di Mozzo, paese nel Bergamasco di 7.500 abitanti, il sindaco e la giunta si sono dotati di smartphone a spese dei cittadini. Io non so se questo... immagino che sia vero, non vorrei trasformare il programma in una rubrica di denunce degli sprechi delle pubbliche amministrazioni, però se volete mandarci noi li prendiamo, abbiamo un appuntamento su cos'è questa crisi e lo continuiamo. Se poi invece il sindaco di Mozzo vuole chiamarci o un assessore dice che gli smartphone li hanno comprati a spese loro, Non si capisce perché il sindaco di un paese con 7500 abitanti ha bisogno di uno smartphone. Avrà un computer, no? In ufficio, immagino. E quindi, però, se vogliono chiamarci per smentire, come per il sindaco, l'ex sindaco di Alessandria, Carlo Fabio, ci chiami, ci spieghi che, perché queste 500.000 euro di rose servivano, le penne, 25.000 euro di penne servivano. Cioè, noi siamo qua aperti a tutto, lo dico anche a chi sta scrivendo. Adesso però c'è il GR, poi la, il Consiglio dei Ministri e le novità che potrebbero arrivare su bibite, su l'arancia, eliminata la tassa sul, sulle bibite gassate. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per occuparci adesso soprattutto del Consiglio dei Ministri. Come ricordavamo in apertura, oggi la giornata sul fronte italiano ha due versanti: l'incontro tra governo e parti sociali, quindi Confindustria, datori di lavoro, in questo caso Confindustria, Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, banche, ABI, e ne abbiamo ampiamente parlato, e l'altro invece riguarda il Consiglio dei Ministri vero e proprio. C'è l'obiettivo di questo Consiglio dei Ministri è il cronoprogramma, cioè le tappe delle misure, dei provvedimenti mirati allo sviluppo. Il tema più spinoso però riguarda il famoso decretone sanità, quello preparato dal ministro Renato Balduzzi, che rispetto alla bozza iniziale, da quello che si capisce, è svuotato di molti dei suoi contenuti. Gli articoli da 27 sono scesi a 18, ma nemmeno in questo modo piace alle regioni. Allora ci colleghiamo subito con Roberto Turno, che è la firma del Sole 24 Ore quando parliamo di sanità e che sta seguendo appunto il Consiglio dei Ministri. Roberto, buonasera. Buonasera a te e ai tuoi ascoltatori. Da quello che si capisce, alcuni dubbi di costituzionalità dovrebbero essere stati superati, però c'è l'ipotesi, dunque salta la tassa sulle bibite gassate, però chiedo conferma a te. Ma era ormai già suonato, sì, e già messo in preventivo dal ministro nella sua, nella sua provocazione iniziale, corroborata da buone intenzioni. Poi, insomma. Ecco, l'altra cosa era insomma, 20, i succhi di frutta dovranno avere i succhi almeno il 20% di succo originale. Di succo originale. Pesce e latte crudo vietati nelle mense? Guarda, il decretone è entrato in consiglio dei ministri, io sto seguendo queste vicende ancora con meno articoli, con 16 articoli. Oggi. Cioè, da decretone a decretino? Da decretone a decretino, offese. Insomma, molto ino non è, perché tutte queste cose nella sanità, per quante le sono state tolte, ce ne sono molte che fanno gridare scandalo, pare anche la Quirinale, questo, in quanto a necessità e urgenza. Diciamo che come in un conclave che si entra a Papa, si esce cardinale, non è da escludere, non è da escludere, ma non diamolo per sicuro, che da decreto possa essere derubricato a disegno di legge, a un provvedimento più ordinario, a meno che salvare alcuni aspetti. Certo. Questa è una discussione che è stata in corso fino a tarda mattinata, a quanto se ne sa, però è noto che nei dialoghi con il Colle vige la discrezione massima. È chiaro che il governo, dopo aver affrontato ancora ieri nelle segrete stanze lunghe ore di discussione su questo provvedimento, il governo però naturalmente ha intenzione, come dire, di evitare scontri, ecco. Allora, volevo chiederti ancora due cose, perché poi ne parleremo con chi in questi giorni ha preso posizioni anche molto nette sul decreto. Mi riferisco da un lato a chi rappresenta il Tribunale dei diritti del malato di cittadinanza attiva. Lo saluto perché è già in collegamento Giuseppe Scaramuzza. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. E buonasera anche al segretario nazionale della NAO Assomed, che è l'associazione dei medici dirigenti, rappresenta i medici che lavorano negli ospedali pubblici, Costantino Troise. Buonasera anche a lei. Buonasera a tutti voi. Volevo chiedere una cosa, Roberto. Le altre misure, perché abbiamo visto, vabbè, alcune cose un po' minori, alimenti dietetici per l'infanzia potranno essere prodotti solo in stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute. E vabbè, cessione di immobili ospedalieri da dismettere come possibile forma di pagamento a chi realizza lavori di ristrutturazione per la messa in opera delle strutture. Ancora sponsorizzata da Balduzzi, su cui so che l'economia tanto attenta alle entrate che derivano dai giochi di Stato, quella che è la droga per la ludopatia, poi è spuntata adesso la possibilità che le nuove sale giochi con slot e tutto quanto non possano essere aperte a meno di 200 metri da scuole, da edifici di culto, locali. Ebbene no, perché l'ipotesi iniziale del testo di Balduzzi era 400 metri, quindi insomma si è scoppiata una baraonda che valeva anche per quelle esistenti, insomma. No, ma mi fa un po' sorridere perché uno che vuole... Poi è del tutto la distanza minima, ora però torna la distanza minima. No, vabbè, io posso capire che esteticamente una sala da giochi non stia bene di fronte a una chiesa o di fronte a una scuola. No, ma io non faccio il tifo. No, dico semplicemente che mi sembra una grandissima cavolata. Però non vuole vincoli. E anche l'economia sulla non pubblicità, vuole vincoli. Sulla pubblicità, perché lì c'è una stretta che è notevole. Sì, perché c'era anche l'ipotesi di limitare la pubblicità delle sale da giochi. Allora, parliamoci chiaro. Anche delle lotterie di Stato. Ecco, io posso dire una cosa, così creiamo un po' di... siccome è vietata la pubblicità delle sigarette, su cui lo Stato comunque incassa fior di miliardi, io vieterei anche la pubblicità delle sale da gioco, visto che c'è una dipendenza lì, e vieterei, se vogliamo metterla tutta, così mi sparano tutti gli amici produttori di vino, anche la pubblicità degli alcolici, no? Perché allora o decidiamo che l'alcolico fa meno male delle sigarette... E che... Lo dovremmo fare di tutte le bevande zuccherine anche. Vabbè, adesso c'è la Coca-Cola dietro. Ma io sono d'accordo che con te, però questa è la realtà. No, nel senso che a me va benissimo, le sigarette non ne puoi mai parlare, ma ci mancherebbe, però poi ti becchi pubblicità in continuazione sul gioco, quando sappiamo che è fonte di distruzione di intere famiglie. No, lo dico perché a me la regola dei 200, dei 400 metri, ma se uno, abbiate pazienza, sarebbe come dire che se allontani il tabaccaio uno smette di fumare, ma quando mai? Invece vorrei capire l'ultima cosa, Roberto, poi passo agli ospiti. La riorganizzazione del sistema sanitario, cioè l'assistenza di base dovrebbe essere archiviata la figura del medico di base, attivo 5 giorni alla settimana, immaginando invece nuclei di medici che alternandosi... Okay, però l'archiviata, il medico di base resta, non resta, ma tra l'altro non si prevede più il passaggio alla dipendenza come si prevedeva, come proponevano presso le regioni. Restano, salvo il fatto che si lavorerà in associazionismo, cose che nelle regioni più avanzate ho capito. Dicono non è una novità. L'intramoenia allargata, cioè l'attività svolta da medici presso strutture private per mancanza di spazi sanitari pubblici. La norma è esattamente quella iniziale. Cioè potranno continuare a svolgere tale attività, ma dovrà essere assicurata la tracciabilità dei pagamenti dei pazienti. Esatto. E l'azienda sanitaria tutti dovrà ricevere dal professionista una certificazione. Vabbè. Più c'è una tassa al carico dei medici. Mi confermerà il Truise del 5% per finanziare. Roberto, se tu vuoi restare in collegamento con noi, con molto piacere. Perché ascolto volentieri un attimo i tuoi ospiti, ti ringraziamo. Magari poi chiudo perché sono qui a Palazzo Chigi. No, va bene, ci mancherebbe, non vogliamo che ti salti il decretino. Nel senso di decretino, tutta una parola. No, Troise, visto che ti ho chiamato ed evocato, lei ha detto anche oggi: attenzione, c'è il danno dal braccio di ferro con le regioni è un danno che sta producendo effetti devastanti. Allora, cos'è che non vi piace di questo braccio di ferro e perché chiedete che il Ministero porti avanti la versione originaria del decreto? Innanzitutto il conflitto istituzionale ormai evidente rischia di trasformare la sanità in un campo di battaglia, insomma. Il gioco dei veti incrociati mette in discussione anche il ruolo del Ministero della Salute, che qualcuno vorrebbe appunto limitare alle merendine e ai videogiochi, e come ieri è stato contestato il Parlamento, la possibilità del Parlamento di legiferare in materia sanitaria, oggi in qualche modo si mette in discussione la prerogativa del governo di avanzare proposte legislative se non previo accordo con le regioni. Voglio dire, questa è la grande lezione politica, secondo me, di questa vicenda, insomma. che alla fine delle buone intenzioni del ministro Balduzzi ha salvato soltanto una parte, insomma, che abbiamo un decreto, almeno quello che entra nel Consiglio dei Ministri, non privo di chiaroscuri, insomma. Sì. Lei pensi che, beh, perché per due motivi sostanziali, insomma. Innanzitutto, voglio dire, è stato, come dire, saccheggiato, stravolto e modificato l'articolo 4 che riguarda il ruolo dei medici ospedalieri all'interno delle aziende sanitarie, prevedendo criteri di valutazione stabiliti dalle singole regioni in base a normative della pubblica amministrazione, come se il medico fosse uguale a un usciere, con tutto il rispetto degli uscieri, insomma. Ed è stato in qualche modo anche rinunciato, è stato scomparso il proposito di riordinare il stesso la normativa dei dirigenti dipendenti del Ministero della Salute, che svolgono un ruolo delicato e che da 20 anni attendono una soluzione alle loro questioni, senza contare che verrà anche eliminata la possibilità che i policlinici universitari rientrino nella programmazione regionale e quindi anche nel piano di rientro, fa sì che tutti i costi della riorganizzazione si, come dire, ricadano esclusivamente sul sistema ospedaliero diretto, insomma. Mi dica una cosa, però, mi scusi, mi dica una cosa, visto che lei rappresenta tutti i medici che lavorano negli ospedali pubblici. E i dipendenti anche. I dipendenti, certo. Sì. Ma l'intramoenia allargata, cioè il fatto che resti possibile per i medici che vogliono fare attività privata, svolta da medici presso strutture private per mancanza di spazi sanitari pubblici, però dovranno assicurare la tracciabilità dei pagamenti dei pazienti e l'azienda sanitaria dovrà ricevere dal professionista una certificazione, a me sembra una buona cosa, no? Ma anche a me sembra una buona cosa. Il merito del provvedimento è quello di aver superato in qualche modo il regime di proroga che dura da 11 anni, insomma, e aver introdotto anche dei gradi di trasparenza, insomma, perché io sono perfettamente d'accordo, insomma. Prenotazione centralizzata, controllo degli orari e dei volumi, tracciabilità dei pagamenti. Il limite però è quello di aver, come dire, aumentato gli oneri burocratici ed anche quelli economici, che poi ricadranno sui cittadini, una vera e propria tassa mascherata, con il rischio di portare il sistema fuori mercato, perché non è soltanto il 5% di cui parlava Turno che va ad aggravare le tariffe, e anche il costo della rete telematica che occorre creare e che ricade sui singoli medici e quindi sulle singole tariffe. Ho capito, insomma. Però e c'era un sistema che era una giungla, abbia pazienza, perché insomma la tracciabilità è importante in questi casi. Non è in discussione, né tracciabilità né il resto, insomma. Però la questione di scaricare tutti i costi finirà col creare delle tariffe che rischiano di andare fuori mercato e si rischia di buttare il bambino e l'acqua sporca, insomma. Insomma, che per un medico non è il massimo questa espressione, però prego. Beh, ma guardi, io credo sulla libera professione dei medici si abbia delle idee un po' di leggende metropolitane, insomma. No, guardi, io sono figlio di un medico, quindi assicuro che leggende non ne ho, però dico che un po' di tracciabilità va più che bene. Comunque, abbiamo il traffico, le chiedo un attimo di pazienza, poi vorrei sentire anche invece chi rappresenta chiaramente il Tribunale dei diritti del malato. 349-238-6666 per i vostri sms. C'è un ascoltatore che dice: bravo Barisoni, beviamo acqua, lei tifa per Grillo, per Vendola, per Di Pietro, magari anche per la Lega, ritirati, sei un buffone. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Ricordo che stiamo ragionando di uno degli elementi principali di questo Consiglio dei Ministri, quindi il decretone sanità, che ha già perso 27 articoli, dovrebbe essere sceso a 16, quindi un decreto più piccolo. Addirittura Roberto Turno ipotizzava che questa novità, visto che il decreto legge per la Costituzione serve quando c'è una necessità di urgenza, qui l'urgenza forse il Quirinale non la vedrà tantissimo, potrebbe essere trasformato in un disegno di legge che invece va in Parlamento. Ma ne abbiamo appena parlato con chi rappresenta i medici, tra poco, qualche istante, ne parliamo anche con chi rappresenta i cittadini. Allora, ci stiamo preparando poi a fare i buffoni, il secondo lavoro che abbiamo, come scrivono gli ascoltatori. Del resto, con la crisi uno si trova anche un secondo lavoro, che però deve essere non in nero. Allora, Giuseppe Scaramuzza, lei coordina il Tribunale dei diritti del malato di cittadinanza attiva. Lei ha detto: attenzione, è talmente stravolto questo decreto che forse è meglio fermarlo, addirittura. Sì, da quello che ci confermava l'ottimo turno, assolutamente, siamo ancora più convinti di questa cosa, perché uno non c'è assolutamente, non ci vuole un costituzionalista, mi dispiace che anche il ministro sia un costituzionalista, per capire che non c'è assolutamente un carattere d'urgenza. Due, ci sembra che ormai è così svuotato questo decreto che sembra fatto apposta soltanto per alcuni. Non credo che faccia bene al paese e soprattutto al sistema sanitario. Quindi noi sì, abbiamo però faccia capire che cosa delle modifiche apportate vi ha deluso al punto. Guardi, abbiamo detto, abbiamo utilizzato provocatoriamente sulle slot, abbiamo detto ci sembra lavarsi la coscienza, nel senso che fino adesso il Parlamento negli anni passati naturalmente ha concesso queste aperture di queste slot machine, sono piene ormai le città e i paesi dell'Italia. Ormai si trova il cavillo dei 400, addirittura i 200 metri. Ecco, no, perché giustamente uno che ha dipendenza da gioco, se deve fare 200 metri si blocca, no? Appunto, è noto. No? È veramente assurdo. Ci fa solo, cioè, c'è gente che andava a San Vincent, a Venezia, al confine, a Monte Carlo, faceva 5 ore di macchina per mangiarsi lo stipendio, figurati 200 metri. Quindi, 200 metri fai tempo a far bancomat. E dall'altro canto il Ministero però annuncia che la ludopatia diventa una vera e propria malattia e sarà inserita nei futuri LEA, nei livelli essenziali di assistenza. Quindi pensate un po', no? Quindi questo è veramente... Cioè prima ci guadagno e poi ti curo, bellissimo, no? Esattamente, no? Quindi questo è veramente... assurdo, ecco, questa cosa. E poi come dire, tutte le altre se non erro, ecco, non sono a Palazzo Chigi, ma se non erro sono stati reinseriti gli enti sanitari inutili che in un primo momento venivano aboliti, cioè almeno stamattina ci veniva annunciato questo, ed è stato detto anche alle regioni ieri. Poi un metodo, cioè quello che noi abbiamo contestato è la metodologia che ha utilizzato il Ministero, un qualcosa che non è stato assolutamente condiviso con, noi abbiamo citato per esempio la categoria degli infermieri, che secondo noi sono fondamentali per l'assistenza sanitaria territoriale, cioè quelle famose H24, gli ambulatori H24, dove spesso si trovano insieme ai medici gli infermieri, che svolgono un ruolo importantissimo, non sono stati per nulla interpellati di come pensavano su questo, mentre sono stati interpellati solo i medici di famiglia. Questo ci è sembrato veramente curioso. Per quello che riguarda, visto che parlava di medici, il ragionamento che facevamo con il rappresentante dei medici che lavorano e dei dipendenti degli ospedali pubblici, l'intramoenia allargata, voi che rappresentate i cittadini, cioè, e tutelate i cittadini, è giusto che prima il segretario della NAO diceva attenzione, qui rischiano di esserci dei costi in più dal fatto appunto che dovrà essere tracciabile il pagamento e l'azienda sanitaria dovrà ricevere dal professionista una certificazione, tutto a carico del medico, a parte il fatto che nel 2012 io penso che la parte telematica si possa risolvere con un modem, no? Tanto ce l'ha il medico. No, però prego. Sì, questo sicuramente, penso che anche Troise è d'accordo sulla tracciabilità e sulla trasparenza, ecco, ormai penso che sia un dato di fatto. Anche noi nutriamo un po' di preoccupazione su questo 5%, perché proprio quello che dicevate prima, questo 5% noi non vorremmo che venga scaricato sui cittadini, cioè nel senso, siccome nel decreto è previsto anche l'individuazione di della nuova tariffa da minima e massima, allora di tutte le prestazioni, a quel punto non vorremmo che questo 5% come al solito lo pagano i cittadini, e in questo senso diventa una vera e propria tassa mascherata. Su questo bisogna assolutamente vigilare affinché le varie aziende, le regioni, ma soprattutto le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere non facciano questa cosa. Allora, insomma, questo è il paese, qui si sta dicendo una cosa, questo 5% i medici lo scaricheranno a noi, anche perché, aggiungo io, da un profilo meramente economico, la visita medica è una di quelle spese ineludibili, cioè uno può rinunciare ad andare dal parrucchiere se costa un po' di più quella volta, ma rinunciare alla visita medica non è possibile. Allora, Troise, visto che lei rappresenta i medici che lavorano negli ospedali pubblici e anche i dirigenti, diciamoci, tanto non ci sente nessuno. Se passerà sta cosa, il 5% lo scaricate a noi. Ma guardi, il 5% innanzitutto va aggiungersi ad altri incrementi che molte regioni e molte aziende hanno già previsto. Mm-hmm. La regione Umbria ha previsto un 29% di incremento delle prestazioni. L'Emilia Romagna si è appresta a chiedere il 12%, il Lazio il 10%, vuol dire questo diventa 12 più 5 e così via. Insomma. Il problema reale è che i medici tenderanno a non scaricarlo, anche perché se la tariffa va fuori mercato, un aumento delle tariffe insieme alla crisi economica che già riduce anche l'accesso alla salute, ridurrà ancora di più la possibilità dei pazienti di ricorrere alla libera professione intramedia, favorendo il privato puro. Cioè il rischio reale è che quei 10 miliardi vanno non intercettati al sistema pubblico, ma direttamente ad alimentare quei 30 miliardi e mezzo di spesa privata che già oggi sono presenti nel nostro paese. Insomma. Cioè lei dice, siccome il medico che lavora nella struttura pubblica e che ha scelto l'intramedia, cioè ha scelto di avere anche attività privata fuori dall'orario di lavoro, si vedrà aggravare insomma il suo tariffario di un 5 fino a un 17%, è probabile che a quel punto il paziente vada da un medico totalmente privato, cioè che non lavora nella struttura pubblica, perché ci va un medico totalmente privato, funziona un altro circuito, cioè, voglio dire, su 100 euro di costo di una visita, 30 euro vanno all'azienda, insomma, 30 euro vanno allo Stato in forma di tasse, il medico porta a casa 40 euro, questo è. Se la quota di 40 euro tende ancora a diminuire, voglio dire, non soltanto il paziente sarà, come dire, troverà meno interessante ricorrere a questo istituto, ma anche il medico alla fine dirà: se sono vicino alla pensione me ne vado via e buonanotte, insomma. Oppure scelgo un sistema addirittura di extramedia e faccio l'imprenditore vero che fa concorrenza al sistema pubblico, perché oggi il medico di intramedia lavora in nome e per conto dell'azienda. Ho capito, io vi devo salutare e ringraziare, grazie quindi Giuseppe Scaramuzza, coordinatore del Tribunale dei Diritti del Malato di Cittadinanza Attiva, grazie a Costantino Troise, segretario nazionale della NAO Assomed. Adesso ho preso le maracas, il cappello da pagliaccio e vado a fare il mio secondo lavoro di buffone, con grande piacere per chi mi definisce così, per tutti gli altri invece ci risentiamo domani dalle 17 in poi, 17.05, buona serata comunque da Sebastiano Barisoni. Radio 24, la passione si sente.